Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Una nuova puntata di Zibaldone. Parleremo di che cosa? Beh, insomma, chi conosce la musica italiana, soprattutto degli anni fine 70, forse riconoscerà questa band. E qui, insomma, riconoscendo la band, si capisce di chi parleremo. Io mi metto la divisa per servizio fino a Pisa, poi domani c'ho la scuola, non ci vado se non trovo la pistola. Vabbè, siamo tornati alla fine degli anni 70, era il 78 per questa Carabiniere con la K Blues dei mitici Schiantos. Perché, di che parleremo quest'oggi? Banzo, buon pomeriggio, bentornato, te lo lascio dire a te e spiegare a te i nostri ascoltatori. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, non solo con la K ma anche con il GN Carabiniere. Sì, hai ragione. Sì, perché parleremo di Dandy Bestia, che degli Schiantos grande. Fu una delle due anime, e che purtroppo una delle due anime principali insieme a Frank Antoni, senza voler togliere nulla agli altri membri evidentemente, e che ci ha lasciato purtroppo lo scorso 16 marzo all'età di 72 anni. Quindi a lui dedichiamo questa puntata, che si intitola La storia ci darà ragione, omaggio a Dandy Bestia. Quindi abbiamo preso una famosa frase degli Schiantos per intitolare questa puntata, non poteva essere diversamente. E a proposito di famose frasi degli Schiantos, volevo citare quella che hanno dedicato, parafrasandola, a Dandy i tifosi del Bologna proprio il 16 marzo, quindi a pochissime ore dalla sua scomparsa, è una notizia freschissima, lo hanno salutato con uno station che recitava "Ciao Dandy, dal tuo pubblico di merda", prima della partita che il Bologna ha poi vinto 5-0 contro la Lazio. Ma vabbè, sarebbe quindi stato contento. Sì, beh, diciamo calcisticamente apoteosico per il Bologna e effettivamente diciamo, un ottimo modo di salutare questo grandissimo. Quindi diciamo... Di cui parleremo quest'oggi con un ospite di eccezione, perché avremo con noi Lorenzo Lerri Arabia, che ha scritto insomma il libro con la L maiuscola della storia degli Schiantos e appunto anche su Dandy Bestia. Con lui parleremo tra poco, insomma ripercorreremo anche un po' la vita di Dandy Bestia e in fin dei conti anche degli Schiantos, ecco, non solo concentrandoci sugli anni, la fine degli anni 70, l'epoca dorata quando insomma gli Schiantos insomma si sono formati, i primi album, quelli più conosciuti, ma anche sugli anni successivi. Banzo, bando alle ciance, questa canzone era del 78, siamo proprio nei primissimi tempi degli Schiantos, no? Sì, è la prima uscita degli Schiantos per la Cramps di Gianni Sassi, 45 giri, sull'altro lato Io sono un autonomo. E Carabinieri Blues, c'è un aneddoto, penso ce ne siano molti, però ne racconteremo uno che insomma è curioso, ma non risale al periodo di uscita del brano, ma una decina d'anni dopo, quando sostanzialmente Dandy fu circondato da dei carabinieri che avevano interpretato a seguito di un live, probabilmente all'aperto, non lo so, avevano interpretato la canzone di Chiese Carabinieri Pichu come onomatopea dello sputo. Quindi non lo so, in questo modo giustificando le papelette sui carabinieri, perché porca vacca. E niente, Dandy con un po' di scaricabarile disse che il testo l'aveva scritto Freak, che fu chiamato in questura a dare delucidazioni il giorno dopo. La cosa si risolse ovviamente in un nulla di fatto, o forse no, perché Freak lasciò a Dandy un micidiale messaggio in segreteria telefonica, erano tempi di segreteria telefonica, pieno di insulti, che purtroppo credo sia un lost media, purtroppo, perché sarebbe bello recuperarlo. Sì, noi andiamo avanti e in realtà siamo praticamente nello stesso anno, nel 78, prima di parlare con Larry, Ehi, ma che piedi che c'hai, un brano brevissimo tratto da Monotono, che è stato il secondo album degli Schiantos, il primo con la già citata Cramps, dopo il 45 giri da cui ci siamo ascoltati Carabiniere Blues, e che ha introdotto, lo sentirete dalle voci accelerate di Freak, Sbarbo e Jimmy Bellafronte, che riprendono i dialoghi famosissimi di Eptadone, no? E testimoniano un linguaggio giovanile, alternativo dell'epoca, insomma siamo poco dopo il 77. Questo brano, esatto, sono le mitiche intro degli Schiantos. E questo brano è importante perché è il debutto come voce solista di Fabio Testoni Dandy, e in un brano brevissimo, quindi diciamo che mise la punta del piede a mollo, per usare una metafora marittima. È un brano, appunto, dice, dura meno di un minuto, 59 secondi, è un twist al testo volutamente assurdo. E da lì a poco sarà espulso per problemi personali dagli Schiantos, che nel giro di 2 anni perderanno completamente le energie fino a sciogliersi loro stessi. Poi è una storia che, come sappiamo, riprenderà poco dopo, ma intanto ascoltiamo il brano. Ehi, ma che piedi che c'hai? Giù pesi, ragazzi, giù pesi. Intrippato. Ci facciamo? C'ho la paglia, c'ho dei cazzo. Allora, cazzo, schiodiamoci. Oh, ma che cazzo me ne frega? Che cazzo me ne frega? Ma sei tu impara. Ma sei tu impara. Dai, schioda. Dai, schiodare, dai, te lo dai. Ehi, ma che piedi che c'hai? Ehi, ma che piedi che c'hai? Ehi, ma che numero è mai? Ehi, ma che numero c'hai? Dal calzolaio tu ci andrai, le scarpe giuste cercherai, forse il tuo paio troverai, ma risuolarle poi dovrai. Ehi, ma che piedi che c'hai? Ehi, ma che piedi che c'hai? Ehi, ma che numero è mai? Ehi, ma che numero c'hai? E ora abbiamo con noi Lorenzo Larry Arabia, che nel 2017 ha scritto un libro davvero imprescindibile per conoscere gli Schiantos, per sapere la loro fantastica traiettoria durante praticamente oltre 40 anni, tra una cosa e l'altra, della storia della musica italiana, insieme a Gianluca Morozzi. Una storia come questa non c'era stata mai prima e non ci sarà mai più. La biografia ufficiale degli Schiantos, un volume di quasi 400 pagine a cura di Oderso Rubini e Andrea Settis, pubblicato da Goodfellas all'interno della collana Spittel e ristampato poi in una versione tra l'altro ampliata 3 anni fa, nel 2022. Gianluca Morozzi si è occupato della cornice, diciamo così, romanzata del volume, ambientata questa cornice in un ipotetico 2077, e invece Larry Arabia della parte biografica, con interviste, aneddoti, con anche in fin dei conti appunto la storia degli Schiantos. Lorenzo Larry Arabia, benvenuto innanzitutto a Zibaldone. Grazie. Un piacere averti con noi. Grazie e ciao, veramente un piacere anche per me. Ho visto che hai studiato. Ci siamo preparati bene, eh? Tra l'altro una cosa importantissima da dire subito, il testo curato da Oderso Rubini, che è di fatto il quinto Schiantos, nel senso che è lui che praticamente li ha tirati su nel 77. E lui è un produttore musicale che ha una lunghissima storia, magari una volta, se vorrete dedicare una puntata anche a lui, ne vale la pena. Ma Andrea Setti altri non è che Jimmy Belafronte, sì. Perché una volta gli Schiantos avevano 3 frontman. Sì. No, hai fatto benissimo a ricordarlo, perché sono dettagli fondamentali, perché poi sì. Per chi ama gli Schiantos, se ci sta ascoltando ancora di più, lo sapevano già, ma per i nostri ascoltatori, gli altri che sì. Magari insomma non sono così ferrati, questo è fondamentale. Ascolta, parlavamo proprio anche degli inizi, no? Accennavi agli inizi, sì. Degli Schiantos. Io comincerei da lì, no? Perché insomma, certo. Fabio Testoni, studente al DAMS, folgorato sì. Sulla via del rock giovanissimo, adolescente, incontra poi appunto nel 75 Roberto Antoni, suo compagno di corso, e da lì nasce l'idea di formare un gruppo di rock demenziale, no? Uscirà poi un'incisione in cassetta del primo album, una cosa ai limiti dell'assurdo, diciamo così, sì. e da allora Fabio diventerà per tutti appunto Dandy Bestia. Insomma, volevamo sì. Chiederti se ci puoi un po' parlare, se puoi raccontare ai nostri ascoltatori quegli inizi degli Schiantos, e anche in fin dei conti la vitalità artistica, no? Della Bologna di quegli anni. Siamo insomma vicinissimi in realtà nel mezzo del 76. Sì, c'era un grandissimo fermento, erano proprio gli anni del movimento studentesco, erano gli anni in cui c'era anche Andrea Pazienza, quindi basta un nome e un cognome per dire tutto. Guarda, la storia è semplice, poi è raccontata molto anche nel libro. Andrea Setti e Roberto Freak Anthony ebbero la pensata di fare una band di gente che non sa suonare, sostanzialmente. E Stefano Sbarbo Cavedoni dice che invece presentò Dandy Bestia a Freak Anthony, perché erano tutti compagni più o meno nello stesso giro, e anche Andrea Setti, per cui c'è tutto un giro di come dire, di ricordi che magari sono veri tutti, capito? Nel senso che comunque c'era un tale fermento per cui le cose succedevano molto velocemente. Comunque sì, nella 500 di Andrea Setti con Roberto pensavano a dei nomi assurdi inventati di band, mm. A delle situazioni immaginarie. E Fabio Dandy Bestia, che comunque aveva già avuto esperienze musicali importanti, perché lui iniziò sostanzialmente come professionista in orchestra e fece delle tournée con Orietta Berti, che tra l'altro era piacevolmente sorpresa della svolta rock delle sue canzoni, perché comunque comunque le schitarrate c'erano ed erano beatlesiane, hendrixiane, zeppeliniane e tutto liane che si può mettere dentro. Per cui sì, con questo grande fermento Fabio raccontava che addirittura Roberto gli lasciasse i testi nella buchetta della posta, che lui si mettesse sotto a comporre dei giri per musicarli, e fino ad arrivare a questa idea completamente folle di incidere un disco in una notte. Sì, sì, no, tra l'altro, no, con 5 cantanti, 6 musicisti che si conoscevano, alcuni ancora poco, no, all'epoca. Per niente, per niente proprio, senza avere mai provato insieme, capito, con qualche idea di base. E addirittura, se non sbaglio, il batterista non viene citato nei crediti. E intanto se ne sono perse le tracce, ma lui si vergognò così tanto del risultato che si rifiutò di apparire nei crediti, no? Poi Inascoltable o Inascoltable, sì, che è il titolo di una canzone, in realtà è il sunto di tutto questo, nel senso che il bassista, che se non ricordo male era stato ribattezzato Ringo Starter, era completamente incapace, era tutto storto, non andava a tempo, il fonico decise di togliere tutte le parti di basso dal disco, che infatti non ha il basso, tranne che in una canzone, appunto Inascoltable, in cui c'è solo la parte di basso, che è un delirio totale. Sì, sì, sì, sì. Ascolta, ma, insomma, poi sì, la storia degli Schiantos, i nostri ascoltatori se la possono andare a leggere in dettaglio nel vostro libro, no? Ci sono stati un paio d'anni di performance provocatorie con riferimenti al dadaismo, anni folgoranti, folgorati, di meravigliosi e di pazzia, ecco, quella fine degli, sì, anni 70 bolognese, anche per questa nuova band, appunto, di cui parlavamo, gli Schiantos, certo, in quel momento. Ecco, poi però, insomma, alla vigilia dell'incisione del terzo album, sì, Dandy viene messo fuori per i suoi eccessi personali, no? Lo fecero fuori una sera nei tavoli di una pizzeria in cui con Andrea Setti oggi andiamo ancora ogni tanto. No, appunto, no, perché la storia di Schiantos, poi dopo si ritroveranno e ci torniamo. Però io quello, sì, che ti volevo domandare, insomma, quegli anni lì sono anni di una svolta epocale, no? L'inizio, sì, degli anni Ottanta, ecco, sì, si parla degli anni del riflusso. Tu parlavi e ricordavi giustamente che aveva già, no, veniva da una traiettoria musicale, ecco, Dandy Bestia, nominavi Rita, sì, Berti, ma poi anche negli anni successivi, insomma, ha suonato con Ron, con Lucio Dalla, con gli Stadio, ecco. Allora, in realtà lui, la cosa, diciamo, il più importante l'ha fatta facendo un anno di tournée con Lucio Dalla, già strafamoso, parliamo di dopo Banana Republic, insomma, sì, per intenderci, quindi proprio si è fatto gli Stadi con Lucio, e le altre sono state collaborazioni più che altro più o meno accreditate, ma soprattutto il suo ruolo fu appunto di chitarra insieme a Ricky Portera, nella band di Lucio Dalla, che erano gli Stadio, che ancora non erano gli Stadio ufficialmente, perché erano loro ma non avevano ancora fatto le loro prime cose come band solista, ecco. Per cui sì, la cosa principale è stata Schiantos, dopodiché, a parte qualche cosina nelle osterie di Bologna con progetti minori, diciamo soprattutto questa cosa con Lucio Dalla. Sì, sì, sì. E ascolta, poi nell'84 gli Schiantos, che si erano un po' disgregati, si riformano, ma rimangono, sì, della formazione iniziale, appunto Dandy e Freak and Tony, no? Che hanno retto poi il timone per praticamente 30 anni. Sono però, insomma, lo sappiamo, per la loro proposta musicale, insomma, gli anni del berlusconismo, sì, che inizia, anni difficili, ma anche poi per, sì, la crisi della discografia, il rapporto difficile o quasi inesistente con i mass media più mainstream. no? Pensiamo sì. anche alla televisione, alla stampa, che li giudicano poi inaffidabili, li disprezzano, grezzi, insomma, eccetera, eccetera. Ecco, anche poi per il loro carattere, che non è proprio accomodante, no? Anche tra di loro. Ecco, la domanda che ti volevamo fare è: ma secondo sì. te gli Schiantos avrebbero dovuto un po' forse smussare degli spigoli a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, della loro proposta per raggiungere un pubblico più ampio, nel senso quello che hanno fatto gli Elio e le Storie Tese, per capirsi, no? Anche per cercare e non arrivare anche a Sanremo, oppure sarebbero diventati qualcosa, insomma, di irrimediabilmente diverso, ed è bene che siano rimasti come sono rimasti? Ma allora, gli anni Ottanta hanno fatto un grande lavaggio dei cervelli delle persone. C'è da dire questo, intanto, che Gianni Sassi della Cramps, che fu un altro illuminatissimo produttore musicale, parliamo di Area, di Finardi e di tutto quel mondo lì, appena venne a sapere degli Schiantos li volle nella Cramps e provò a mandarli a Sanremo come testa d'ariete per dissacrare il festival dall'interno, però i burocrati della RAI non li vollero, li scartarono alla primissima audizione. E diciamo che gli Schiantos poi ci hanno anche sempre abbastanza giocato su questa cosa, nel senso che la provocazione, l'ironia, il discorso del demenziale era un pochino la loro cifra, che difficilmente poteva essere edulcorata. E quando è stato fatto, vedi il disco Ti spalmo la crema, prodotto sì. dagli stessi che avevano scritto Vamos alla playa, che erano credo i fratelli La Bionda addirittura. Se voi sentite Ti spalmo la crema, sì, esatto. Se voi sentite Ti spalmo la crema, che era il singolo di quel disco, è sostanzialmente una copia di Vamos alla playa, musicalmente parlando. Per cui era veramente difficile gestirli, un pochino per il loro stile di vita, che merita tutto un capitolo a parte, un pochino perché comunque c'era un'intelligenza superiore in mezzo, capito? Sì. Infatti, finita l'esperienza con appunto questa produzione dell'84 e l'allontanamento definitivo di Stefano Cavedoni, che poi era quello che avrebbe poi alla fine forse conciliato un pochino con il mainstream, loro sono letteralmente tornati in cantina a provare come una rock band. Sì, sì. Ascolta, dicevi appunto del loro stile di vita, beh dai, un aneddoto o due ce li potresti fare? Ma allora, intanto, tornando a Lucio Dalla, è stata molto carina una vicenda per cui dovete calcolare che all'epoca i tour erano tour veramente, cioè c'erano delle estati in cui stavi via veramente sempre e non c'erano le Ryanair, non c'erano tante autostrade, era molto più lunga arrivare nei paesi dall'altra parte dell'Italia, per cui Fabio si narra che avesse un amore a Bologna di cui era fortemente invaghito e una sera chiese in prestito la macchina di Lucio per volare a Bologna, perché era un macchinone, e poi tornare indietro in tempo per il concerto della sera dopo, e ovviamente Fabio gliela distrutta in un incidente quindi questa la macchina di Lucio Dalla, forse anche per questo poi dopo l'ha lasciato a casa, ma non l'ha più chiamato dopo. No, diciamo che la sua passione per la bibita, come dicono nelle Marche, è sempre stato come dire, una variabile impazzita che l'ha fortemente condizionato nella sua carriera musicale. La prima cacciata, fra virgolette, dagli Schiantos fu proprio per quello, perché comunque lui era sempre in preda ai fumi alcolici, come evidentemente non si riusciva a trattenere anche quando era in tour con Dalla, e poi anche comunque negli anni Ottanta. Ma adesso, facendo un volo a tempi più recenti, negli anni 2000 andarono ospiti fissi a una trasmissione delle reti Mediaset, di quelle sulla comicità che cominciavano a prosperare, che era Colorado Caffè, se sì, non sbaglio, certo. Se non ricordo. E siccome il loro ruolo era ridotto a siparietti fra una gag e l'altra, no? Spesso e volentieri Fabio andava a finire in osteria e non si ripresentava quando dovevano registrare e suonare, per cui anche quella cosa lì andò male, capito? Perché comunque da gestire era complicato. Era ecco. Complicato, come Piero Ciampi, sì. Per dire, insomma, in qualche modo, ecco. Ascolta, a proposito degli ultimi anni, no? Voglio dire, gli Skiantos hanno continuato a fare album nuovi, a sfornare album nuovi fino praticamente, insomma, in tempi recentissimi, ecco. Ma la gente in genere conosce essenzialmente i grandi successi, Mi piacciono le sbarbine, Gelati, queste cose qui. Ma tu cosa consiglieresti ai nostri ascoltatori di recuperare, no? Magari appunto degli anni successivi, dalla fine degli anni 80 in avanti. Guarda, allora ci sono secondo me due dischi, anzi facciamo anche tre, perché c'è Il Signore dei Dischi, che è un lavoro, tra l'altro, che anche quello, credo, prodotto da Guido Elmi, provarono a fargli veramente, a fargli fare uno scatto di qualità. Ci sono delle canzoni molto belle, tra cui appunto Signore dei Dischi, Calpesta il Paralitico. Lì c'era La Penna di Frick, era veramente molto pungente, ma soprattutto secondo me il disco dopo, che fu sostanzialmente un mezzo flop perché per varie questioni non fu probabilmente pubblicizzato a dovere, sostenuto a dovere, che è Saluti da Cortina, che è veramente un disco pazzesco di rock anni 90, in cui loro erano in quattro. C'era Granito Morsiani, batterista romagnolo, che era un martello, Marco Nanni, che aveva abbandonato gli Stadio per andare a suonare con gli Skiantos e divertirsi, Fabio Testoni appunto alle chitarre, Frick alla voce, e andavano in giro in quartetto ed erano una tale potenza di fuoco musicale, io me li ricordo, che spaccavano proprio. E mi sento di consigliare anche l'ultimo disco, in realtà, che è del 2009, che è Dio ci deve delle spiegazioni, perché fu proprio un lavoro fatto veramente molto bene, l'ultimo disco con Frick, insomma. Sì, appunto, Frick, insomma, ne abbiamo parlato varie volte anche qui a Zibaldone, molti lo ricorderanno, è morto nel 2014, sono stati poi tanti gli omaggi, i tributi, le iniziative, ecco, e poi anche grazie appunto a Dandy, agli Skiantos Superstiti, le sue canzoni hanno girato ancora molto, no? Fino all'ultimo. Ecco, ma a tuo parere le istituzioni bolognesi in primo luogo, ma non solo, i media, potevano fare di più? E soprattutto, ora che anche, insomma, Dandy purtroppo ci ha lasciato, sarebbe giusto che facessero qualcosa? Ma guarda, queste celebrazioni lasciano poi il tempo che trovano. Io vedo che è la gente che li ama, e secondo me è la cosa principale, perché comunque sia, adesso io sanno tutti quanto bene io abbia voluto a Frick, a Dandy e a tutti gli Skiantos. Sono e sono sempre stati degli incredibili cazzoni, capito? Cioè, che è la cosa più Skiantos di tutte. È la loro cifra. Sì, capito? È la cosa più Skiantos di tutte, per cui anche le istituzioni, che per carità hanno ricordato Frick, hanno ricordato Fabio l'altro giorno quando c'è stata la cerimonia funebre, vanno benissimo, però, capito, quando c'è un Iggy Pop che gli capita fra le mani in ascoltable, lo mette su e nella sua trasmissione sulla BBC fa ascoltare gli Skiantos, ragazzi, insomma, è un'altra cosa, No. Come riconoscimento. Sì, hai perfettamente ragione. E ascolta una cosa, gli Skiantos, diciamo così, hanno tenuto alta la bandiera della demenzialità, no? Del rock demenziale, per capirsi, insomma, di un tipo di musica che si mette in genere sotto quel cappello lì. Noi un anno e mezzo fa qui a Zibaldone abbiamo dedicato uno speciale in tre puntate, titolo è stato La famosa invasione dei dementi in Italia, che partiva da Clem Sacco e dal Primo Iannacci fino ad arrivare ai giorni nostri e dava ovviamente uno spazio importantissimo agli Schiantos. Quando chiudevamo l'ultima puntata arrivando al presente, riflettevamo un po' oggi, come dire, il rock demenziale, che è sempre meno rock tra l'altro come cioè dal punto di vista del genere musicale, ormai è prevalentemente in rete, sempre meno dal vivo, anche perché stanno sparendo gli spazi dei locali della musica dal vivo, e i fenomeni virali tra l'altro hanno sempre una durata minore, la soglia di attenzione è sempre più scarsa, pensiamo ai video di TikTok, insomma queste proposte rischiano spesso di rimanere per pochi, pochissimi. Ecco, tu conosci qualche solista, qualche gruppo giovane, qualche artista giovane che porta avanti la bandiera della demenzialità e potresti consigliare qualche nome anche ai nostri ascoltatori? Ma guarda, allora, intanto c'è da dire che Stefano Sbarbo Cavedoni da anni porta avanti un suo format live, minuscolo, perché per carità, che non venga in mente a qualcuno di supportarlo, che si chiama, come una canzone degli Schiantos, Lardo ai giovani, per cui lui appunto fa esibire diverse band più o meno demenziali, perché un sottobosco in realtà c'è, capito? Ma allora, se noi vogliamo portare avanti la tradizione bolognese, anche se non è una band recente ma è tuttora in attività, ti posso citare gli Atroci, ed è una band che letteralmente prende in giro il mondo dei metallari. E loro sono truccati come dei metallari, sono dei musicisti portentosi, esistono da tanto, però se vi andate a vedere qualche video loro su YouTube, anche le canzoni sono molto belle, e loro hanno comunque un certo circuito, per cui comunque girano, fanno concerti con un sacco di pubblico. Ecco, questa è una cosa che mi sento, visto che abbiamo uno sbocco internazionale, no, con voi, mi sento di consigliarli, perché si vuole divertire e stimolare sotto tanti punti di vista, perché anche i loro videoclip sono proprio delle storie molto divertenti, molto ben fatte. E allora, gli Atroci, noi ce li segniamo e lo ripetiamo anche ai nostri ascoltatori, e poi insomma, per chi avesse occasione, seguire anche appunto il Lardo ai giovani di Cavedoni, no? Sì, è una cosa minuscola, intendiamoci, e me ne dispiaccio, perché è una cosa che non fa tendenza, non fa chip, non è affine al mondo di adesso, della brevità, comunque Frick, quando faceva anche i suoi spettacoli teatrali, in cui declamava, in cui parlava e non cantava, spesso e volentieri ripeteva le battute, il finale delle battute 2 o 3 volte, perché invitava la gente a riflettere su quello che aveva appena detto, capito? Una cosa che oggi sarebbe impossibile nel mondo di internet, capito? Cioè, perché ci vuole un ritmo, un ritmo pazzesco, cosa per cui molti comici della vecchia generazione fanno veramente fatica a confrontarsi con le trasmissioni che ci sono adesso. È come, assolutamente vero. Ascolta, Larry, grazie davvero di cuore di averci accompagnato quest'oggi. Lorenzo, ma grazie a voi. Lorenzo Larry Arabia, che vi ricordo ha scritto con Gianluca Morozzi, Una storia come questa non c'era stata mai prima e non ci sarà mai più, biografia ufficiale degli Schiantos, uscita per Goodfellas 2017, edizione ampliata 2022, cercatevela. Larry, un abbraccione forte. A te, grazie, e grazie a tutti. Hai già dimenticato dove ti ho portato? Sabato scorso, quando mi son perso, nei tuoi occhi blu, non sai che cosa perdi. Tu fumi e non ti accorgi che mi sforzo di inventare la serata, ti offro un'aranciata e pagherò, sì pagherò, pagherò per te. Andiamo a già a farci una tassone, i pezzi sono buoni, conviene anche a te. Sono i biliardini, giochiamo coi bambini e si vince di più. Se vuoi mangiare qualcosa, prendiamo due panini, prosciutti e salamini. Acra, lo sai, non manca mai. Piacerà la formica, l'atmosfera languida ed il verde del biliardo con due tavoli vicini, due cuori, due quartini e la musica. Sì, la musica ci aiuterà. Costa niente essere galante e stare tra la gente. Se vieni al caldo spostando i volantini, sorseggia più martini, sazierà. Ma vieni a là, vedrai, ti piacerà e ti sorriderà la felicità. Ciuffo e chitarra, oggi come allora l'Elvis del Presena in Trentino Alto Adige con il cuore all'America dice: solo io posso fermare la guerra in 20 minuti e lo farò con la tecnica del finto maresciallo. Mai stati vicini ad un accordo di pace, ottimismo della Casa Bianca alla vigilia della giornata mondiale del sonno della nostra democrazia, che il mondo ha seguito con il fiato sospeso. La Lega, i nostri rapporti con Trump, utili per un saluto e una benedizione che danneggerebbe in modo importante le eccellenze italiane. Ho provato tutto, chiediti se sono felice. A Bologna Prodi striglia il PD sfortunatissimo ed eterno perdente, poi desiste perché non ci sono alternative. La Madonna non è disponibile. Nella giornata mondiale della felicità emerge che gli anziani sanno essere felici senza Stellantis. John El Clan, l'auto italiana già scomparsa da tempo, sostituita da una raffica di droni. Siamo cresciuti insieme all'Italia e investiremo nel suo toto allenatori, mister non più autoritari ma compagni di vita come Maurizio Sarri. Questa non è la commedia sexy italiana degli anni Ottanta. Meloni alla Camera critica il manifesto di Ventotene sul cambiamento climatico. L'allarme di Tajani: ghiaccio, acqua, foreste. Senza di loro non ci sarebbe stato Lino Banfi sulla Terra. E sono tornate immancabili anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, un commento telegrafico sulle molte notizie che ci arrivano e ci fanno forse avere una visione un po' più realista, visto quello che sta succedendo nel mondo in quest'anno 2025. Realista è una parola grossa, comunque queste ultimissime ribadiscono l'importanza della natura e dell'ambiente, perché senza tutti l'ecosistema del mondo non avremmo avuto Lino Banfi, cioè non avremmo avuto l'umanità in generale, ma non avremmo avuto Lino Banfi in particolare. Quindi mi raccomando, non buttate le cartacce, perché diciamo che se l'erede di Lino Banfi non è ancora nato, possono esserci delle conseguenze. Poi volevo chiederti, visto che si tratta delle tue parti, chi sia questo Elvis del Presena? Non lo so. Non lo so neanche io. Un ghiacciaio, sarà conservato benissimo comunque. È come l'uomo del Similaun. Vabbè, ascolta Banzo, prima ci siamo ascoltati un brano che forse a molti suona così nuovo in realtà, insomma nuovo, nel senso non l'hanno mai sentito. È dell'84, perché si chiamano I Ruvidi del Liscio, Andiamo al Kral, tratto dalla compilation Cuori Italiani, perché l'anno precedente, nell'83, dopo la rottura degli Schiantos di cui parlavamo prima anche con Larry, Freak and Tony e Dandy si ritrovarono sul palco del Gran Pavese Varietà, uno spettacolo ideato da Patrizio Roversi e Susie Bladi in uno storico circolo Arci bolognese. Ecco, nello spettacolo Freak, no, si inventerà cose nuove, improbabili band. I nomi delle band li posso dire io? Dilli tu perché sono incredibili, no? Inventa quel tempo. Questi gruppi assurdi come i New Beatniks, i Bovines o Bovines e appunto questi Ruvidi del Liscio, che sono ovviamente tutte formazioni estemporanee che devono apparire nel varietà, e in questo caso Dandy canta, è solo cantante di un brano dal suono che non lo sappiamo come suonasse al Gran Pavese Varietà, però sul disco suona abbastanza anni 80, abbastanza sintetico. Il nome Ruvidi del Liscio non ha nulla a che vedere poi col genere musicale portato al successo della dinastia Casadei, perché siamo più dalle parti di un Sergio Caputo in minore, e il Kral è il dopolavoro, questo va detto effettivamente, perché è un termine forse un po' desueto per molti, e è un brano bellissimo anche solo perché cita la Cedrata Tassoni, quindi sì. Cioè, lo so che è quasi un momento commerciale, sarebbe inappropriato, però diciamo che qui si gioca con i sentimenti in un certo senso. Poi, se mi permetti brevemente, nella compilation Cuori Italiani abbiamo citato una serie di nomi, un'apoteosi di bolognesità, sto dicendo molto apoteosi oggi, però c'era anche Lorenz, il mitico Elvis di Romagna, appunto, visto che abbiamo citato Elvis. Vero. Con Ruminante, che è uno dei suoi brani più belli, e non sono ironico, veramente è un grandissimo rock and roll. Vero. Andiamo avanti nel tempo e ci avviciniamo al presente con un brano che sicuramente non conoscete, di Dandy Bestia, alias Fabio Testoni. Eccolo qui. Lo raccontano e alle volte succede che rimanga nell'aria un silenzio più grande di quel che si crede. Potrebbe davvero restare la pazienza di un cuore, è una cosa più seria di quello che sembra. È poi strano star qui a osservarti che piove e non smette. Avrei voluto guardarti con questo distacco, sederti di fronte, così come niente, le vetrine del bar in autunno, che passa la gente qui fuori, che affretta, che corre, cosa importa se guardi lontano, è l'ennesima sera in cui tutto è un'attesa, i tuoi occhi più scuri, il tuo viso distratto e però. Sono qui, da il tempo che serve a rimuovere il sonno, che è giorno ed è giorno di nuovo. È arrivato novembre al mattino, è già freddo. (Susurra) se c'è un'ombra di te che si allunga fin qui, estranea ormai quasi a tutto, siamo noi così dentro a un destino, certi giorni di più, altri meno, un treno in corsa sulla ferrovia, un ramo che si spezza sotto le scarpe, questi giorni e altri giorni lasciati già indietro nel buio, nel buio. Cosa importa se guardi lontano? È l'ennesima sera in cui tutto è un'attesa, i tuoi occhi più scuri, il tuo viso distratto in penombra. Sono qui, dammi il tempo che smetta sta pioggia e che torni a girare aria pura nell'aria. È arrivato novembre e al mattino è già freddo, è già freddo. Sono qui, dammi il tempo che serve a rimuovere il sonno. È giorno ed è giorno di nuovo, è arrivato novembre e al mattino è già freddo, è già freddo. Beh, questo brano intitolato Novembre del 2016 è l'esordio da solista con il suo vero nome, ossia appunto Fabio Testoni, di Dandy Bestia, Banzo, aiutato tra l'altro da molti amici, molte persone, no? In questo album molto rock. Sì, un taglio più cantautorale, ma non ovviamente chiave rock, ma non si può parlare di vero e proprio cantautorato, perché alla fine di tutti i testi Dandy ne scrisse uno solo, mentre altri erano di Sbarco Cavedoni, e questo e altri due sono della giornalista e scrittrice Maria Gervasio. Comunque, di questo disco è importante sottolineare, si intitola Giano, è il suo unico album solista, e arriva in un momento particolare, cioè 2 anni dopo la scomparsa di Freak. Ed è stato aiutato in questo disco, un disco abbastanza spartano, produzione di Odero Sorubini, alla batteria Gianluca Schiavon, che era già stato nell'ultima formazione degli Schiantos prima della morte di Freak, e collaborazioni occasionali Maurizio Solieri, Alex Britti. Molto molto sorprendente, e diciamo che qui era c'erano anche testi, ho dimenticato di dirlo, dello stesso Freak, che evidentemente risalivano a più di 2 anni prima. E importante per vedere anche un lato diverso di questo artista, diciamo, il disco si chiama Giano, quindi vediamo un altro fronte, ecco, appunto, perché gli Schiantos ovviamente sono legati alla musica demenziale, alla risata, all'ironia, e anche bello vedere, sentire una canzone dove appunto la battuta non arriva, per apprezzare un'altra faceta, per dire un termine spagnolo, un'altra sfaccettatura di questo artista. Noi facciamo un salto adesso indietro di 10 anni, nel tempo che ci rimane in questa puntata di Zibaldone, al 2005, Sogno Improbabile, l'album che uscì quell'anno degli Schiantos, e andiamo ad ascoltarci una canzone, visto che parlavamo in fin dei conti di cantautorato per quanto rock, che si intitola La ballata del cantautore triste, e che insomma, lo scoprirete ascoltandola, perché ha molto a che fare anche con la Bologna in cui sono cresciuti gli Schiantos. Eccola qui. Sono un cantautore triste e piango molto spesso, e più spesso mi deprimo, soprattutto verso sera, quando arriva primavera. Sono un cantautore vero, canto solo se mi ispiro, e mi vedete, son sincero, soffro tanto per davvero, e ho un successo lusinghiero. Non so far altro che stare qui a cantare, mescolare note che facciano sognare. Una pizza al tavolo 5? Sono sempre stato triste. Allora arrivo al caffè. Anche da bambino, e non soltanto per coerenza, ma piuttosto era già tendenza, e l'impegno è sofferenza. Due caffè per le Ho signorine. Ho cominciato molto presto, poi confesso, ho preso gusto a cantare il mondo ingiusto e a sentirmi molto tristo, e scusatemi se insisto. Il conto all'avvocato. Non so far altro che stare qui a cantare, mescolare note che facciano sognare. Il conto al tavolo 7. Non so far altro. La baiarda al 10. Che stare qui a cantare. Pagati il 3. Mescolare note. Sì. Che facciano sognare. Sono artista complicato, voglio essere ascoltato. Fra sociale e personale, trovo sempre una morale. Sì, sì, ha pagato, ha pagato. Non so far altro che stare qui a cantare. La baiarda al 10. Mescolare note che facciano sognare. Non so far altro che stare qui a cantare. Due caffè per le signorine. Mescolare note che facciano sognare. Non so far altro. Ragioniere, il solito? Un grappino al ragioniere. Non so far altro. E vabbè, pizza, paiarda, conti, grappini, caffè, banzo, insomma c'era di tutto in quel bar, mentre Dandy Bestia imitava un po' e sbeffeggiava i cantautori. Beh sì, questo cantautore triste che ha questi pensieri altissimi, però è dentro, boh, forse una pizzeria, non un bar, non lo so, e viene costantemente disturbato dalla realtà, che la gente vuole mangiare, vuole bere. E è una canzone che potrebbe anche riassumere in parte il rapporto complicato che hanno avuto gli Schiantos col cantautorato. Ho fatto una bella rima, non poteva essere diversamente, perché gli Schiantos sono nati, diciamo, da posizioni completamente antitetiche. In largo all'avanguardia c'era anche una presa in giro dadaista, però alla fine sei a Bologna, una delle città, non è Genova, però è una città comunque molto importante per il cantautorato italiano, e alla fine si trovano a collaborare con molti personaggi importantissimi della nostra scena cantautorale, da Alla, Ron, Lolli, Guccini, che viene anche invitato a fine brano. Quindi diciamo che alla fine finisce il pareggio, ecco, non, e se comunque c'era stato un anatema è stato ritirato in corso d'opera. Ecco. Tra l'altro con Claudio Lolli aveva anche scritto un brano, inciso un brano Dandy Bestia, insomma gli Schiantos, nel 94, Angolo B, che è poi una critica a come cambia la città di Bologna, che non è più la rossa Bologna, la Bologna che loro avevano vissuto in gioventù, eccetera, ma si stava convertendo in un'altra cosa. E siamo alla fine della trasmissione. Vi faccio spoiler prima di passare al finale. Angolo B è Bologna al contrario. Eh certo, bravo, bravo, hai detto bene. E Banzo, il tempo è tiranno, siamo alla fine della puntata di quest'oggi di Zibaldone dedicata a Dandy Bestia. Andiamo con un classicone degli Schiantos di fine anni 80, almeno la registrazione. 1987, io poi lo vidi dal vivo 10 anni dopo, ma non partiamo con i ricordi personali che sono pure belli. Sì, beh, sono il Belle Mamma, ballatona rock come poche, il cui destino è stato segnato in un certo senso da due nomi importanti della musica italiana che è difficile mettere nella stessa frase, cioè Caterina Caselli e Vasco Rossi, perché prima fu Caterina Caselli a rifiutare il brano perché aveva già qualche anno di vita quando venne inciso, quindi Caterina Caselli lo rifiutò e convinse gli Schiantos a incidere il disco di, un disco di cover balneare, sì. Spalmo la crema, che poi non ebbe molto successo. E Vasco Rossi perché? Perché Vasco Rossi ripescò il brano, lo adorava e alla fine, così innamorato di questa canzone, fornisce agli Schiantos un contratto per 3 dischi per l'etichetta Bollicine, che era sua. Quindi alla fine, non lo so, Vasco Rossi ha fatto anche cose buone. No, a me non piace molto, però ecco, si è capito che non sono un fan di Vasco, diciamo. Comunque una canzone che è una satira sul contrasto fra le velleità di ribellione e la dura realtà, però sempre c'è un po' di dolcezza. Noi siamo arrivati alla fine di Zibaldone, grazie per averci accompagnati, ci ritroviamo venerdì prossimo e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.56 diceva tutti i venerdì: assodato che il pubblico è di merda. Chi era più di merda? Il pubblico che ascoltava gli Schiantos o quello che non li ascoltava? Forse sono due merdosità diverse. Può essere. Ciao Banzo, buon venerdì sera a tutti. Sono un ribelle mamma, gli Schiantos. Passami la mamma, lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino, avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire, resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male, dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici, parla forte, non capisco cosa dici. Sono un ribelle mamma, vai a letto, non star sveglia nella stanza. Sono un ribelle mamma, vai a letto, non star sveglia nella stanza. Vediamo, torna pure a letto, domani arrivo, ok, te lo prometto. E per favore stira la maglietta, c'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini,